Zeman secondo me è una persona molto molto intelligente, è anche un grandissimo paraculo. Finale in Australia, vittoria a Roland Garros, quarti a Wimbledon e qui una vittoria, cioè un anno incredibile. E abbiamo apprezzato subito cose diverse di questo uomo, che è una persona che aveva lavorato anche alla Caritas. Tutti convocati di Carlo Genta. Buongiorno Giancarlo. Giancarlo. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao a tutti, 800 24 0024, cari amici miei, che ieri insomma, mi avete dato grande soddisfazione, ci siamo molto divertiti tralasciando l'argomento calcio e andando e spaziando dal tennis al basket, cosa che faremo anche oggi, visto che nella notte c'è stata gara 3 per chi era sveglio tra San Antonio, che ha distrutto Miami, campione in carica, serie sul 2-1 per i texani, ma c'è stata anche gara 1 della finale, della serie finale del nostro scudetto, con una vittoria fin troppo facile per essere vera, o almeno così io spero, sul campo di Roma, e quindi già Siena che ruba il servizio. Intanto c'è stata anche la nazionale, ma non so chi abbia avuto il coraggio di vederla, amichevole Italia-Haiti, e chi ha avuto il coraggio di vederla sicuramente si è poi pentito, perché 2-2 con questa squadra, insomma un 2-2 svogliato, come penso sia normale a fine stagione. Si va, è vero, verso la Confederation Cup, ma non mi sembra esattamente il mondiale o un europeo, semplicemente un torneo fatto di amichevoli, scivoloso, perché le figuracce come quella fatta ieri sera rischiano di essere un problema e un pericolo sulla strada della preparazione di quelli veri, degli appuntamenti veri. Però tant'è, intanto siamo distratti già da voci abbastanza incredibili, come quella del Monaco che vorrebbe Cristiano Ronaldo, pronti 100 milioni si dice, ingaggio di oltre 15 per il portoghese. Questa è soltanto una voce, ma può essere credibile, e se a Ibrahimovic aggiungiamo Cristiano Ronaldo e poi oltre alla Vezzi ne aggiungiamo qualcun altro, e vedete che anche il campionato francese diventa qualcosa di interessante. Però ci sono altre notizie, se vogliamo più divertenti, di cui parliamo dopo, a proposito dei vecchioni del nostro campionato. Prima però, ragazzi, fa un caldo pazzesco. Abbiamo tutti voglia di mare, c'è chi ci può andare e chi no. Exciting and new. Devo dire, per essere onesto, che davanti a questo mare non si può essere sinceri, che il giocatore che ha più così in questo momento mercato è nettamente Sharawy. Non ci sono offerte vere e proprie, ma interessamenti e telefonate ce ne sono molti. Il prezzo non è stato ancora fatto. Ma io credo che la domanda vada girata ad Aurelio De Laurentiis. Non so quanto sia la nave dell'amore quella su cui si trovano Galliani e Massimiliano Allegri, in crociera sociale, come sapete, crociera organizzata dal Milan, ma da lì arrivano appunto queste parole. Insomma, il Sharawy sì, non è proprio incedibile, non ci sono trattative, ma però si può fare. E poi se voglio trattare Tevez lo faccio, non è che me ne importi molto dell'interesse della Juventus. Temi interessanti, ragazzi, 800 24 0024, e per questo fanfare per il principe del calciomercato, è il principe. El principe Alessandro Bonan, speciale calcio mercato Sky. Ciao Ale. Ciao, buongiorno, ma mi sembra un po' eccessivo, io. Lascia fare a me, che ci pensi io. Non essere sempre così. Senti, in questi giorni ne hai già fatto fuori qualcuno? Con la penna? No, con la penna. Allora hai scritto qualcosa dopo Anatomia di una voce di cui abbiamo parlato l'altra volta. Sì. Adesso insomma sto pensando di scrivere un qualcosa di ancora più truce. Oh, è lì che ti volevo, è per questo che ti ho detto se hai già fatto fuori qualcuno. Sì, una voglia tirar fuori le viscere proprio dai personaggi. Mi piace giocare con la materia grigia. E questo lo sappiamo, il cervello, e questo lo sappiamo. Abbiamo fatto sentire Love Boat, ma l'anatomia della crociera del Milan come la vedi? Ma secondo me è una crociera a mare aperto, cioè nel senso che potrebbe portare un po' ovunque, perché mi sembra che Galliani giustamente difenda i suoi giocatori, quindi affermando che c'è un lotto di punte importante, quelle saranno, eccetera, però al tempo stesso tiene aperte delle porte. Una di queste è per El Shaarawy, che è un ragazzo molto bravo, che ha un grande mercato, ma che la mia sensazione è che se per lui dovesse arrivare un'offerta importante, sarebbe comunque sacrificato sul mercato. Questo è quello che penso, anche per queste esigenze tecniche e tattiche che sono sorte con le due punte e che sinceramente faccio un po' fatica a comprendere fino in fondo, perché per me un bravo attaccante può giocare sia da esterno d'attacco eventualmente o anche come seconda punta. Sì, su quello non c'è problema, poi dipende anche dalla disponibilità dei giocatori. Io ho avuto la sensazione che il piccolo faraone abbia alzato un po' la cresta dopo l'arrivo di Balotelli, dicendo vabbè, io vi ho portati qui, ho fatto una montagna di gol, adesso mi fate correre come un cammello perché lui deve fare la superstar. Sto forzando. No, vabbè, potrebbe essere una interpretazione appunto forzata, ma diciamo che c'è una concomitanza tra l'arrivo di Balotelli e il calo, la flessione di El Shaarawy. Però io penso che poi alla fine, insomma, mi sembrano due giocatori diversi, quindi certo, non capisco perché quindi potrebbero tranquillamente stare insieme. E quello che dico è che se ci sono degli sviluppi di mercato che possono portare, faccio il nome di Tevez visto che è stato fatto dagli altri, a Tevez al Milan e a Shaarawy da un'altra parte, diciamo che è un cambio di mercato nel quale il Milan non è detto che ci rimetta, anche perché poi ci sono dei soldi in ballo. Anche se c'è una cosa che non mi torna, principe, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi ho altre due considerazioni per te. Una è proprio questa e riguarda l'età, io ho la memoria un po' corta, sai che ormai perdi colpi con gli anni. E l'altra invece sono le preghiere che si stanno alzando, io le vedo, fiumi di preghiere che si stanno alzando dal cielo di Milano. Tutti convocati. Allora, il principe Alessandro Bonan, ti dicevo, la memoria mi fa degli scherzi, perché l'anno scorso, certamente ricordo male io, Berlusconi disse adesso via tutti i senatori, si va con i giovani giocatori, la cui età non deve superare gli anni 22, e Shaarawy ne ha 20, Tevez 29, Diamanti di cui si parla 30, Matri 29, ma certamente mi sbaglio io, eh? Sì, però non è che puoi fare una squadra di tutti i bambini, quindi per esempio adesso l'ultimo dei senatori se ne sta andando, perché proprio in questo momento si stanno incontrando il Milan e il procuratore di Ambrosini, o meglio il procuratore di Ambrosini e i dirigenti della Fiorentina per la cessione di Ambrosini alla Fiorentina, per l'accordo di Ambrosini alla Fiorentina, quindi se ne va un altro pezzo di un Milan che è stato, e quindi è anche in questo senso il Milan comunque cambia pagina, però è un Milan che ha bisogno di andare un po' più avanti rispetto a quello che ha fatto nell'ultima edizione anche in Champions League, e quindi se riesce a far cassa e al tempo stesso sostituire Shaarawy con un giocatore come Tevez, secondo me compie un'operazione anche intelligente, sì, tecnicamente ed economicamente. Sì. Senti Ale, un'ultima cosa, parlavo di quelle preghiere che salgono al cielo di Milano. Siamo a questo, no? Tahir ha invitato, pregate o voi interisti che io riesca a comperare questa squadra. Ma guarda, io da un lato penso che quando insomma c'è un investitore straniero che ha voglia di metterci dei soldi, sia positivo. Da un altro penso che ci sia un po' di fretta in tutto questo e molta riconoscenza nei confronti di un uomo che ha dato tanto all'Inter, ha messo un sacco di soldi e quindi sotto questo profilo merita il massimo rispetto da parte di tutti, non soltanto degli interisti. Al momento siamo al parlare, ma di fatti concreti non ce ne sono. Qui bisogna capire veramente fino a che punto Moratti ha intenzione di cedere. La sua difficoltà sta nel fatto che se non cede, la maggioranza della società poi deve dimostrare di essere in grado, certo, comunque di sostenere l'Inter e quindi di investire nuovamente tanti soldi, cosa che al momento sembra abbastanza improbabile. Certo, non è una decisione così, qualcosa no, che si può fare oppure no a seconda di come tira il vento, mi sembra una scelta l'ideale per lui, mirata. Quello che lui cercava era quello di appunto di trovare nuovi investitori che entrassero quote di minoranza nella società. Ma quando ne vedo uno che entra, mette i soldi e fa comandare gli altri, vado a fare il frate. Vieni con me. È molto difficile, molto complicato. Quindi, insomma, sono preghiere al momento al vento. Non so il vento dove le porterà. Grazie, principe. Alessandro Moratti, ti faccio risentire le fanfare se non ti dispiace. Belle, così che mi commuovo. Grazie. Dai, ciao Ale. Ciao. 800240024. Adesso voglio parlare con voi. Non fate i pigroni, Non fate i pigroni. C'è chi mi scrive che sono un milanista venduto e chi invece che scrive che ieri sera l'Italia proprio non l'ha guardata perché ha fatto l'amore con Marilena. Indovinate chi ha ragione dei due. 800240024. Luca Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Per niente pigro, forse un po' polemico. Oh, questo mi piace. Sono un tifoso milanista e lettore del Corriere da una quarantina di anni. Della sera, naturalmente. Sì, sì. E ho avuto occasione di, negli ultimi, diciamo, 20 anni, di leggere quasi tutti i pezzi di Costa e del suo amico Monti. Sì. E mentre da una parte vedo mi sembrano buone letture, le piace tenersi informato. Tutti informatissimi, critiche impietose, durissime, quasi sempre sulla società da parte di Costa, giuste peraltro. E per quello che riguarda il suo amico Monti, è davvero una persona informatissima su quello che succede in società, ma forse sarò anche deviato dal mio tifo milanista. Mi sembra sempre che la colpa di quello che succede all'Inter anche nelle annate storte, e diciamo che in 20 anni ce ne sono state tante, non sia mai di Moratti, mai. Cioè, a me sinceramente sembra di leggere delle specie di comunicati stampa della società e quando va bene va bene, quando va male la colpa è dei giocatori, dell'allenatore, di alcuni dirigenti che in quel momento magari entrano in collisione con la società o... Ma non lo so, credo... No Luca, io insomma posso... Lo dico perché Galliani viene sistematicamente... non sono un amico, né uno dentro. Galliani viene quasi sempre demolito, Berlusconi criticato. Sai che non ho mai letto una seria critica a Moratti in 19 anni in cui leggo il Corriere della Sera. Sarà che da milanista mi viene l'orticaria. Però... Ma sarà quello, ma secondo me è un po' di... Ogni tanto lo vorrei leggere. Tutto qua. Luca, secondo me è un po' di deformazione professionale, perché io, a me è capitato invece di leggerne, abbiamo letto anche un articolo durissimo che era rivolto a Stramaccioni, ma che era rivolto anche alla società che lo aveva... L'ho letto anch'io, quello di qualche settimana fa. Esatto, e quindi insomma è chiaro che Stramaccioni l'ha voluto Moratti, l'ha difeso Moratti, voleva confermarlo Moratti, e mi sembra che Fabio Monti non ci sia andato giù leggero. Ma è soltanto un pezzo recente che mi ha colpito e che mi ricordo. Per il resto non lo so, leggendo i, ma non ho voglia di fare l'avvocato difensore di nessuno, questo sia chiaro, Fabio Monti è un amico così come Alberto Costa, così come molti miei colleghi, non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, però mi sembra che i pezzi di Fabio Monti anche dal punto di vista critico siano impeccabili. Francesco Trento, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono un tifoso, meglio ormai sostenitore del Milan, perché sì, i tempi in cui ci si accalorava sono passati, purtroppo l'epopea di Sacchi è dimenticata quasi. Sì. E, quindi ha preso anche lei una specie di traghetto, eh? Più o meno. Da tifoso fino all'isola, non dei famosi ma dei sostenitori. Sì, diciamo che insomma si vive con un po' più di pacatezza il fenomeno calcistico. Sì, e secondo me non è un brutto posto. No, assolutamente. Secondo me essere un po' più obiettivi e diciamo vedere le cose un po' più dall'alto giova. Comunque, a proposito di vedere le cose dall'alto, io ho sempre accettato e quasi sostenuto la linea, ho un'azienda quindi che è attento al bilancio, secondo me fa solo bene, operazioni come Kakà, Real le ho condivise in pieno, anzi avrei preferito fosse andato qualche mese prima al City per magari 30 milioni in più, solo che lì secondo me la faccia d'angelo di Kakà ha fatto finta di avere la maglia rossonera sulla pelle, ma voleva andare al Real. Ma giusto, l'avrei fatto anch'io, ha fatto i suoi conti, ha detto se io resterei, per quanto mi riguarda resterei, se poi volete che vada, vado, ma vado dove dico io. Però a questo punto uno deve avere il coraggio di mettersi la faccia e non dire che è una scelta di vita stare al Milan e 4 mesi dopo andarsene. Sì, però è il Milan che l'ha venduto, eh. È il Milan, certo, che gli ha detto, caro Riccardino, adesso ti vendiamo. A quel punto lui, ma giustamente, ha detto non resta a dispetto dei santi, però cari santi, come detto, vado dove ne ho voglia, perché sfido chiunque a fare qualcosa di diverso. Il City non era ancora il City attuale, Kakà doveva essere l'uomo che apriva la via all'arrivo di altri campioni, di altri giocatori, di andare in una squadra in costruzione. Kakà non ne aveva voglia, e tra gli uni e gli altri, senza rimetterci io credo neanche un soldo, Kakà ha fatto quello che ha ritenuto opportuno. Quanto siete appassionati di cinema? Stavolta non è Love Boat, eh? Indovinate che film è? Alessandro da Alessandria. Buongiorno Carlo, grazie. Buongiorno. Della convocazione. Mi accomodo in panchina comunque, non pretendo di fare il titolare. Perché no? No. Ma siete tutti titolari. Ma siete tutti titolari. Qui sono tutti convocati e tutti in campo. Nessuno alla panchina o alla tribuna. Poi questo si vede in base agli interventi. E poi c'è anche, come sa, il sabato con il magazine c'è anche la top 3 dei migliori in campo. Però Alessandro, lei si ricorda questa colonna sonora? Non è facile anche perché è un film di qualche anno fa. Cocoon, scritto così, dove c'erano, esatto, tutte quelle persone. La locandina in azzurro. Bravissimo, c'erano tutte quelle persone anziane, tra l'altro grandi attori, che facevano il bagno in questa piscina magica e miracolosa, e ringiovanivano in maniera incredibile. Ha fatto il bagno anche Xavier Zanetti, che ha rinnovato fino al 2014, ringraziando Urbi e Torbi, presidenti, tifosi e tutti quelli che c'erano. Come avete sentito anche prima da Alessandro Bonan, andrà a fare il bagno da qualche altra parte, magari alla Fiorentina, Ambrosini, che era l'ultimo superstite, di Natale immortale, più che Cocoon Highlander forse in questo caso. Rinnovo fino al 2015, mentre seguirà Ambrosini su altri lidi, un'altra bandiera dell'Inter, come Stankovic, dopo che invece la piscina era azzurra, sappiamo, ha già trovato posto. Samuel, che ne dice? Complimenti a Samuel, a Zanetti e Ambrosini e ai loro procuratori, perché si strappano ancora degli ingaggi a quella veneranda età, bisogna fare i complimenti. La mia domanda invece riguardava la mia fede, che io sono juventino dai tempi di Sivori, Boniperti, sì, e Ciardi, sì, insomma, ne ho viste. Mi sembra che quest'anno la Juve stia rifacendo la stessa campagna pressapochista dell'anno scorso. L'anno scorso entrava Van Persie, Tevez, Suarez, poi è arrivato tal Bender che ha difficoltà a giocare nei nostri campetti di Brighi. Quest'anno si sta trattando Tevez, Higuain, Jovetic. Non vorrei che arrivasse un altro Bender o un altro Anelka. Intanto Llorente è già arrivato e mi sembra vagamente più forte di Bender, da vedere da queste parti, però mi sembra un gran bel giocatore che quest'anno è stato ovviamente parcheggiato in panchina per motivi contrattuali ed è arrivato a zero soldi. La campagna acquisti della Juventus l'anno scorso non mi pare fu così pressapochista, almeno dal punto di vista dei rinforzi, perché ripeto, Asamoah, Isla, che quest'anno abbiamo visto pochissimo, ma che continuo a considerare un gran bel giocatore. Giovinco deludente, fin qui siamo d'accordo, però non mi pare che la campagna dell'anno scorso sia stata bucata. È certo che si cerca sempre con il lanternino questo famoso super giocatore. Le piste sono quelle, qui è da aggiungere quella che sembra particolarmente battuta e calda di Higuain, con, si dice oggi, Ancelotti che vorrebbe Real Madrid a Suarez, quindi porte aperte al passaggio eventuale di Higuain alla Juventus. Questo lo vedremo, mi sembra molto presto per parlare di pressapochismo nella campagna acquisti juventina. Ragazzi, ci sentiamo dopo la borsa, 800240024. Io quando vengo convocato da Carlo Genta mi sento come Benigni, vorrei mettermi tutto in nudo per la felicità, hai capito? Tutti convocati. Dunque, amici miei, 800240024, leggo nel frattempo notizie interessanti, se vere. C'è Galliani che aprirebbe al Napoli per El Shaarawy, Robinho verso il Santos, ma di questo si parla ormai da un sacco di tempo. C'è chi scrive, dà ragione, che non sarebbe male per niente un attacco Saverio da Monza, un attacco del Napoli con il faraone Higuain e Insigne, tutt'altro che male. È chiaro, bisogna far cassa e vendere Cavani, ma questo sarà fatto. C'è chi mi chiede un giudizio sul nuovo allenatore della Roma, Rudy Garcia. Non so darlo, voglio vederlo nel nostro campionato. Pare sia stato scelto da Pallotta, che ha picchiato i pugni sul tavolo e ha detto: basta, adesso comando io con i miei quattrini. Mi avete stufato. Al lavoro anche l'Agenzia delle Entrate spagnola, e c'è un'indagine sui Messi, padre e figlio, per presunta evasione fiscale. Fanno i conti e dicono: ma qui non ci tornano, mancano 4 milioncini di IRPEF sui diritti di immagine. Vediamo come va questa storia. Allora, Enrico da Roma, buongiorno. Sì, ciao Carlo, sempre convocato. Sempre convocato, presente, siamo qui. Molto bene. Io ti chiamavo a proposito dei playoff NBA. Ho visto stanotte il primo tempo di gara 3. Sì. E certo non sono un fan di San Antonio, ma di sicuro sono anti Miami, soprattutto dopo la conferenza di ormai 3 anni fa di LeBron. Sì. E ho una considerazione da fare sulla gara. Di sicuro il lato positivo per chi è anti Miami è che San Antonio di fatto ha vinto, pur senza, diciamo, un contributo sostanzioso dei Big Three. Sì. Come era stata l'altra volta Miami, cioè senza, esatto, i 30 di LeBron James. Esatto. Il bicchiere però mezzo vuoto mi fa dire che è difficile aspettarsi da Gary Neal e da Green un contributo di questo tipo tutte le gare, anche certo. Se Green mi sta sorprendendo in maniera positiva. Sì, certo. Insomma, però come dicevi tu, prima o poi, quando serve la mano di quegli altri tre, al secolo Parker, Ginobili e Duncan, vedrai che risponderanno presenti. Ma quindi secondo te chi vince? Ma io sono abbastanza allineato con te, nel senso che in questa finale tifo per, credo, quello che sia la fine di una leggenda, quella dei San Antonio Spurs, ovviamente per motivi anagrafici delle sue stelle. E tifo per loro, Miami non è per me il massimo della simpatia, per la verità. Grande ammirazione per San Antonio, però le squadre che così mi fanno friggere sono delle altre. Però in questa finale faccio il tifo per per Cocoon, speriamo che abbiano trovato la piscina giusta anche a San Antonio e fino alla fine di una serie che li vede comunque in vantaggio 2-1 dopo aver già vinto a Miami. Certo, ieri gli hanno dato una bella ripassata, 113-77 sul tabellone. Ieri sera anche gara 1 dei playoff italiani, come dicevo, non è stata una gran partita. Roma, una volta tanto lo si può dire e lo si deve dire, deludente, al di là del 76-85 il risultato finale che dà a Siena il vantaggio del fattore campo, però ieri davvero poca Roma e poca difesa, come ha detto Calvani. Sentiamo subito i due coach della finale dopo la gara di ieri, il senese Banchi e il romano Calvani. È solo un primo episodio, è una condizione psicologica che i nostri avversari già conoscono per averla vissuta nella serie contro Reggio Emilia, che noi già conosciamo per aver vinto la gara di esordio a Varese, e adesso c'è da intuire che tra 48 ore in campo sarà un'altra partita, speriamo di essere pronti. Intanto c'è da fare i complimenti a Siena, perché un risultato non è mai casuale, soprattutto quando per buona parte della partita il pallino ce l'hai sempre in mano. Di contro c'è che se noi non difendiamo non andiamo a nessuna parte, e quindi siamo stati su due aspetti tecnici del pick and roll e del post-up con gli esterni, soprattutto con Hackett, siamo stati imbarazzanti. Quindi se viene a mancare l'elemento difensivo, per noi poi diventa anche difficile innescarci offensivamente. Le due cose sono sempre state collegate come una catena per tutta la stagione. Molto corretta l'analisi di Marco Calvani, allenatore di Roma. D'altra parte Siena è una squadra molto chiara nella sua forza, i cui leader offensivi sono Hackett, Brown e il signore con le treccine, David Moss, ieri nettamente il migliore. Se non riesce a difendere su questi tre, un po' difficile portare a casa qualcosa. Davide The Chief Pessina, ciao. Ciao Carlo, buongiorno. Come stai? Bene, grazie, tu? Stai vivendo sul fuso orario di sì, del Texas adesso. Adesso del Texas, pur essendo qui. Partiamo da lì e da questa spazzolata 113-77, non saprei come altro definirla, li hanno asfaltati. Sì, cioè, l'atteggiamento di Miami è abbastanza difficile da spiegare, mosci, senza, insomma, sempre a inseguire, a reagire. Invece San Antonio ha giocato molto bene la sua partita, nonostante non la miglior partita dei suoi big three. Ginobili e Parker sono riusciti a vincere in maniera molto convincente con l'esplosione di Danny Green e soprattutto Gary Neal, che qualcuno ricorderà con la maglia della Benetton. A Treviso, come no. Davide, l'impressione è che San Antonio sia una squadra che, ma anche storicamente, quello che deve dare te lo dà, se non con quei tre là, te lo dà con altri giocatori, poi quei tre entrano in gioco se quando serve e non tradiscono mai. Sia una squadra dal rendimento costante, cioè tu sai quello che San Antonio farà o riuscirà a fare, molto ondivaga invece Miami. Sì, è basato forse più sul talento, invece più sul sistema San Antonio. L'allenatore Popovic ha sempre le idee molto chiare e sa trasmetterle molto bene ai suoi giocatori. È una cosa molto importante, sanno trovare poi i punti migliori, però anche ieri la sensazione è stata che ce ne avessero di più innanzitutto. Possono aprire le palle vaganti, hanno dominato anche la lotta rimbalzo, punti in area, punti in contropiede, insomma tutte queste cose. E la difesa schierata, sappiano sempre qual è il loro obiettivo, cioè far girare la palla, trovare un vantaggio magari con penetrazione, scarico, finché trovi un vantaggio. Se poi tiri con le percentuali di ieri, 16 su 32 da tre punti, è chiaro che diventa tutto più semplice. Di là Miami e tutti aspettano sempre qualcosa a LeBron James, e se in gara 2 hai avuto Chalmers, Miller, Ray Allen, in gara 3 non hanno avuto. Tante, anche il fatto che Wade e Bosch per ora stanno facendo pochino. Sì. Senti, Pes, nei tuoi 312 anni di Serie A hai attraversato ovviamente anche le due finaliste di quest'anno. Certo, potevo mica negarmele. Non potevi certo negartele. Roma e Siena, vista ieri non c'è serie, spero che non sia così, spero che sia fuoco fatto. Io non credo che poi sarà così, nel senso che Roma è arrivata a sorpresa, però è arrivata con grande merito, per cui sono consapevole anche del perché sono arrivati. Secondo me le parole che abbiamo appena sentito di Calvani sono molto chiare. Certo. Se non tornano la loro identità, con Siena diventa molto dura. È chiaro che probabilmente hanno avuto anche un po' un impatto con la finale, perché comunque è vero, i playoff, le semifinali sono molti, mettono pressione, ma una finale è un'altra cosa. Poi l'aspettativa della gente, con Roma praticamente mobilitata, insomma c'è stato un po' di scotti da pagare. Adesso io credo che Roma tornerà un po' in carreggiata, riuscirà con qualche, diciamo, contromossa a subire un po' meno, soprattutto diciamo, il gioco spallacanestro degli esterni di Siena, che da lì è andato tanto. Ma lì nascerà tanto, perché comunque tenere questi è difficile. Hackett è diventato ormai un giocatore dominante, difficilmente marcabile. Sì, è vero, però magari con un raddoppio o qualcos'altro. Credo che soprattutto se troverà qualche punto anche correndo, Roma potrà avere un po' più di fiducia. Dall'altra, Siena è una squadra che, anche se ha cambiato tantissimo quest'anno, però sa come giocare questo tipo di partite, le gioca con un po' più di calma e con un po' più di lucidità. Ecco, a Roma forse è mancato un po' di lucidità, ma credo ci possa stare. Sì. Playoff, però quest'anno gli italiani hanno dimostrato che dopo gara 1 può succedere ancora di tutto. Ma sicuro. Senti Davide, un'ultima cosa, perché abbiamo la stessa età e non svelo niente. Ieri sera ci siamo sentiti un po' più giovani, perché siamo tornati ai tempi in cui facevamo, non so, tipo cadetti, allievi, cadetti. Ah, sì, quando c'era l'orologione al centro del tavolo, no? Ti ricordi? Il cronometrista con l'orologione e poi le palette. E poi ci mancavano 6 punti, come ti ricordi? Ti avevano l'omino col tabellone che girava. Girava i punti, sì, e mancava solo quello. Non una bellissima immagine per la pallacanestro italiana, diciamo. È vero che può succedere sempre qualcosa, niente di particolarmente grave, però non è stato bellissimo vedere. Ma è stato bello per noi, dai. È stato bello per noi vecchi, sì. Noi anziani, un viaggio nella memoria. Però insomma, una finale scudetto che c'hai da aspettare un po' di tempo, perché sono saltati i 24 secondi, un po' un problema. Senti, un tabellone di quelli lì con i punti che si girano ce lo compriamo, esatto, giochiamo, però ce lo mettiamo in camera noi. Non disturbiamo nessun altro. Rompiamo le scatole a nessuno. Grazie Davide, ti abbraccio. Grazie a te, ciao, buona giornata. Ciao. Grazie Davide Pessina, ci fermiamo per le strade e poi torniamo con loro, i convocati. Vittorio Salerno, Paolo, provincia di Pordenone, 800 24 00 24. Vorrei sapere se qualcuno ha avuto il coraggio di vedere la nazionale ieri sera. C'era l'ascoltatore prima di Genova che aveva di meglio da fare, ma non so se tutti si sono impegnati in quell'attività. A dopo. Adesso magari si cambiasse anche la pettinatura, però così è molto riconoscibile, soprattutto per i vecchietti come me che ci vedono poco. Mica vero. Tutti convocati. Se volete al capitolo magari chi se ne frega, Vips con la S al Palatiziano ieri sera, Federica Pellegrini e Magnini ritratti anche sui giornali, uno accanto all'altro. Moreno Roggi, agente di Ambrosini, dice che dalla Fiorentina non si sono fatti sentire. Lo scopriremo vivendo, se Ambrosini deciderà di vestirsi di viola dopo che ha detto addio al Milan. Vittorio da Salerno, buongiorno. Buongiorno. Mi dica tutto. Io volevo farle una mia constatazione, anche facendo a lei una domanda. Io ho visto ieri sera, lei ha chiesto chi è che aveva visto la nazionale ieri sera. Io l'ho vista. Sì. Però io quello che mi domandavo, ho visto i giocatori che erano molto stanchi, perché parliamoci chiaro, si parte dal mese di luglio, sì, si finisce un altro po' a giugno, si ricomincia a luglio. Sì. Cioè, secondo lei, non è troppo tutte queste partite nell'arco di un anno? Ma certamente che lo è. È chiaro che è così, è chiaro che non puoi giocare 80-90 partite tra amichevoli o gare di qualificazione, oltre agli impegni con il club, eccetera. Sono una montagna, ed è per questo che non mi sorprende per nulla, insomma, quanto visto ieri sera, o non visto, perché è meglio dire non visto ieri sera in campo con quelli dalla camicia a fiori. Tahiti, come sapete, meravigliosa divisa sociale dei nostri avversari di ieri sera. Un'Italia improponibile, inguardabile, stanca, che non ne aveva voglia evidentemente, e di fronte una Confederation Cup che, come sappiamo, è diventata una tradizione. È un torneo, secondo me, che non vale nulla, è una serie di amichevoli, però è un torneo che nel quale si può perdere, si può soltanto perdere magari credibilità, magari autostima, magari qualche certezza o magari qualche giocatore per strade, questo ci auguriamo ovviamente di no. Ma a proposito della nazionale di ieri sera, sentiamo questo. Vi resta comunque la soddisfazione di aver aiutato chi sta peggio di voi? E chi sta peggio di noi? Maffè vuole sfottere. E non per fare, diciamo, discriminazioni, ecco, non giocavamo contro la Spagna o una squadra, una nazione pluridecorata, per cui credo che con un briciolo questo risultato sia stato dovuto e figlio, diciamo, con un briciolo di, magari di superficialità e presunzione, perché pensavamo di portare a termine la gara e la vittoria senza patemi. Ma sì, Gigi Buffon, ha ragione Ronzo Canai in questo caso, non mettiamola giù troppo dura, insomma, per questa partita con Haiti. È vero, Paolo? Sì, beh, li ho visti anch'io. Buongiorno intanto, Carlo. Buongiorno. Se non è stata una grande partita. No, piccola, no. Anzi direi una non partita. Noiosa, anche se devo dire la verità, nonostante i 4 gol. E volevo dire una cosa molto veloce. Ho visto parte dell'incontro della Errani con la Williams, no? Sì. E siccome non sono più un ragazzino, purtroppo, a vedere la Williams mi sono venute in mente quelle nuotatrici dell'est degli, sì, anni 70-80, atlete varie dell'est. Lei cosa ne pensa? Lei fa sottili allusioni. Serenona ha quel fisico da quando era ragazzina, insomma, è una picchiatrice, è una giocatrice dalla potenza tremenda, ma lo è sempre stata, non lo è diventata. Certamente è cresciuta con il tempo fino a quelle dimensioni giunoniche che io credo ho frutto allenamento. Non starei tanto a tirare in ballo gli anni 70 le atlete dell'est o della Cina. Semplicemente io credo che Serena Williams potrebbe stare in campo con quel tipo di tennis anche contro diversi colleghi uomini, e che non sia arrivabile proprio dal punto di vista fisico per una che gioca come Sara Errani. Picchia troppo forte questa, e quando è in certe condizioni, perché non dimentichiamo che ha avuto anche diversi problemi muscolari proprio data questa potenza, è andata su e giù dalla classifica, dal ranking per diverse volte, però quando raggiunge questa forma di strapotenza fisica, secondo me diventa difficilmente battibile da tutte. Stefano, provincia di Reggio Emilia. Sì, ciao Carlo, grazie a te sempre. No, volevo, sono un tifoso juventino, così volevo fare una considerazione sul mercato della Juve. Cioè, io penso che comunque tutti questi soldi da spendere non abbia un gran senso, ecco, diciamo così. Perché secondo me con l'ossatura della squadra che è la Juve quest'anno, l'anno scorso, insomma, e secondo me con un innesto che potrebbe essere Jovic con l'Oriente e la cessione di Matre, secondo me i problemi... Cioè, minimalismo, tu dici? Sì. Andiamo sul minimalismo. Ma io dico che la Juventus deve lavorare per restare a questi livelli, perché comincia ad essere una squadra che non ti dico vecchia, ma che i suoi anni ce li ha. Dal punto di vista anagrafico mi vengono in mente Buffon, Barzagli, Pirlo stesso. È una squadra che ha bisogno di una rinfrescata. Perché? Perché? Perché il tempo passa e perché si lavora per il futuro. Quindi non credo che sia sufficiente siano sufficienti un paio di ritocchi minimali per continuare a scalare soprattutto i gradini d'Europa. Secondo me servono interventi un po' più profondi, e credo lo sappiano anche Marotta e compagni e colleghi e amici come siete voi per me. 800 24 00 24, io vi aspetto domani insieme a Franco Piantaneda, che ringrazio, autore di questo programma, e a Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti.